Buongiorno da un lido di Venezia decisamente cupo e piovoso che si appresta ad accogliere domani, ma insomma il bel tempo dovrebbe tornare, l'ottantesima edizione della Mostra del Cinema, l'ennesima guidata da Alberto Barbera che avrebbe ancora un altro anno di direzione, anche se i vertici della Biennale che dovrebbero cambiare prima potrebbero anche portare qualche sorpresa, ma Barbera è sicuramente un'anomalia l'assetto italiano, nel senso che ha guidato la mostra attraversando insomma anche molti cambi di governo, come accade in altri paesi, penso alla Francia. Un'edizione segnata in qualche modo dallo sciopero degli attori in corso a Hollywood, sciopero degli attori accompagnato anche dallo sciopero degli sceneggiatori, quindi un mondo hollywoodiano in fermento, e gli Stati Uniti che sono stati uno, come dire, degli elementi che Barbera ha giocato con forza, si è giocato con forza in questi anni, riportando, diventando, tornando a essere, facendo di Venezia di nuovo un asse, un polo gravitazionale importante per il cinema americano, riuscendo a superare anche la concorrenza di Toronto che c'è subito dopo. Quest'anno però appunto ci saranno grandi assenti, da Zendaya a Bradley Cooper, che sono Bradley Cooper protagonista e regista del film su Leonard Bernstein, Maestro, e insomma assenze delle star americane in qualche modo si faranno sentire, anche se qualche star arriverà, ad esempio confermata la presenza di Penelope Cruz e Adam Driver, che sono protagonisti del film su Enzo Ferrari, girato in Emilia l'anno scorso da Michael Mann, così come ci sarà anche Cate Blanchett. Ma al di là delle presenze e delle assenze, naturalmente un gioco che può sempre funzionare. Ovviamente lo sciopero ha impedito anche l'arrivo di alcuni film, come ad esempio Challenger di Luca Guadagnino, appunto interpretato da Zendaya, film che non sarà a Venezia e che è stato posticipato al 2024. Non credo che sia per questo che ci sia invece una folta rappresentanza italiana, sono ben sei film. Barbera si è difeso sostenendo insomma che ad esempio a Cannes i film francesi in questi ultimi anni sono stati sempre tantissimi, anche più di sei, ed è vero, però insomma questa scelta, già l'anno scorso c'erano stati abbastanza, forse anche troppi rispetto alla loro qualità, ma insomma ovviamente fa in qualche modo da lastura insomma a chi vede appunto una Venezia un po' più autarchica, nel segno appunto del nuovo governo meloniano. In concorso Stefano Sollima con Adagio, Edoardo De Angelis con Comandante, che apre il festival domani, Figlio d'arte Pietro Castellitto con Enea, Saverio Costanzo con Finalmente l'alba, Matteo Garrone con l'attesissimo Io Capitano, la storia di due ragazzi senegalesi che cercano di arrivare in Europa, un'odissea insomma che non so quanto farà piacere invece all'attuale governo, e poi un bolognese, Giorgio Diritti, con una storia Lubo ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, anche questo insomma però un film che racconta una storia di discriminazione, e quindi è sui contenuti che poi credo Venezia insomma e Barbera si giochino in qualche modo il giudizio sul loro grado di indipendenza e di autonomia. La giuria sarà presieduta dal regista americano Damien Chazelle, dentro ci saranno anche Gabriele Mainetti, Jane Campion, Martin McDonagh, Laura Poitras, quindi insomma una giuria di tutto rispetto. Sui film il cartellone concorso è decisamente molto, molto ricco, con registi da festival e non solo tra i presenti. Insomma, oltre a quelli che ho già citato, il cileno Pablo Larraín, il ritorno di Luc Besson, greco Yorgos Lanthimos, in un film interpretato da Emma Stone, il suo film americano, in qualche modo comunque fuori dalla Grecia, e poi ancora David Fincher, anche per lui un ritorno importante, il film con Michael Fassbender, The Killer, Sofia Coppola con Priscilla, Agnieszka Holland, insomma, Stéphane Brisé, ecco, Michel Franco, il messicano, con il film Memory. Quindi, insomma, un cartellone, devo dire, di livello, così come ci sono molti film interessanti fuori concorso. Ovviamente c'è sempre qualche concessione ai nuovi assetti politici, penso a The Penitent di Luca Barbareschi, ma poi abbiamo grandi maestri come Woody Allen, Roman Polanski con i loro ultimi film, Liliana Cavani che avrà un meritatissimo Leone d'Oro alla carriera, Wes Anderson con un mediometraggio, Richard Linklater. Vedremo anche quale sarà il versante delle polemiche, già si può intravedere nella presenza di Fede Polanski e Woody Allen, politicamente scorretti, sappiamo, nella loro vita privata, anche se poi, insomma, da un punto di vista, al di là delle valutazioni etiche, dal punto di vista giudiziario, con alterne vicende. E poi naturalmente anche tutto quello che riguarda la sezione Orizzonti, che è una sezione che è quella che in qualche modo ha finito per accorpare in questi anni diretti da Barbera, insomma, un po' le tante anime del festival, che naturalmente poi avrà anche la settimana della critica in parallelo con i film scelti dal sindacato critici, avrà le giornate degli autori, che peraltro si apriranno domani con un film di Antonio Pisu, Nina dei Lupi, prodotto dalla bolognese Genoma Film. Avrà la versione Restauri, una versione Venezia Classici con i film restaurati, e poi anche ovviamente tanto altro, con quello che diciamo il côté più mondano. Ma insomma, Venezia è soprattutto cinema, vedremo insomma anche un po' come sarà la risposta del pubblico. I biglietti non sono certo a buon mercato, anche questo potrebbe essere un tema foriero di polemiche. E poi quanto ai temi, una breve ricognizione tematica, poi naturalmente avremo modo di tornarci nei prossimi collegamenti dal Lido, il prossimo sarà venerdì, poi ci sentiremo anche la prossima settimana. Sicuramente un focus importante è quello sugli adolescenti, ci sono tanti film che hanno per protagonisti degli adolescenti un po' sperduti, incerti, in grande difficoltà. Barbera ha detto, ma è un tema forse conseguenza anche del Covid che ha inciso su queste generazioni. Due adolescenti sono i protagonisti ad esempio del film di Garrone, della loro odissea, della loro traversata da Dakar all'Europa, ma ce ne sono veramente, sono disseminati un po' ovunque, e non è solo, come dire, non c'è solo il motivo del passaggio dall'adolescenza alla maturità, c'è qualcosa di più, c'è un crinale, come dire, di ulteriore fragilità, insomma, che emerge almeno da come questi film sono stati presentati. Ora naturalmente non ci resta che vederli, a cominciare proprio da domani. Alcuni di questi film usciranno anche, non molti a dire il vero, in contemporanea nelle sale italiane, quindi qualcuno lo si potrà vedere anche a Bologna, penso io, capitano, che Matteo Garrone presenterà giovedì 7 settembre all'Arena Puccini, e ci sarà lui fisicamente, quindi insomma, per fortuna i margini di uscita in sala rispetto ai festival si sono molto assottigliati, e quindi insomma Venezia è anche più vicina, anche per chi non riuscirà a venire. Dal Lido un buon proseguimento di giornata da Piero Di Domenico.